La parola chiave di quest'anno è insostenibilità. Esatto, insostenibilità perché in verità si parla della parola sostenibilità, ma ancora non è vera. Noi adesso siamo insostenibili. Quindi i temi che tutti gli anni il Tel Aviv Film Festival affronta, che sono temi di impegno civile e diciamo grandi temi, grandi nodi della società, soprattutto occidentale di oggi, sono in verità temi non ancora risolti, come l'inclusione, i diritti umani, i diritti civili, l'insostenibilità del mondo della moda, la violenza di genere. Quindi ogni giorno sarà dedicato a un sottotema rispetto al macro tema dell'insostenibilità che verrà affrontato attraverso dei talk e i film in concorso sono a tema durante le varie giornate proprio sulle varie tematiche, sui vari nodi appunto della società civile che ancora non sono risolti. Quello che appunto si dice è che questa insostenibilità deve avere un trattino in mezzo, insostenibilità, cioè trovare metodi e modi per fare in modo che diventino sostenibili, che quell'in sparisca, come anche con i ragazzi, perché le scuole sono molto protagoniste del Tel Aviv Film Festival, votano, guardano i film, partecipano alle masterclass a tema. Perché? Perché i ragazzi hanno quella capacità ancora scevra di pensiero critico per aiutare l'adulto a trovare forse percorsi e sentieri per non risolvere, ma insomma per ragionare un po' meglio su questi temi. Lei prima ha accennato ai talk, e infatti vedo nel programma che ci sono dei talk pomeridiani che preludono o a monologhi o a proiezioni successive. Ad esempio, appunto, parlava del tema della moda. Il 23 novembre al Dams Lab dell'Università di Bologna ci sarà alle 16 un talk proprio sui danni. Si chiama L'insostenibile danno della vanità, per far capire quanto la moda sia un fattore tra i più inquinanti al mondo. Esattamente, infatti i talk si svolgono prima delle proiezioni, sia al Dance Lab che al Teatro Laura Betti di Casalecchio e alla Casa della Conoscenza, che sono i tre luoghi, due di Casalecchio, appunto Casa della Conoscenza e il Teatro Betti, e uno a Bologna, zona Cineteca, il Dance Lab, quello del 23 novembre, appunto, sarebbe il focus sull'ambiente, uno dei più gravi pericoli per l'ambiente è proprio il mondo della moda, che è ancora un tipo di insostenibilità ancora molto grave, se possiamo dire, tanto che stiamo testimoniando una rinnovata idea del riuso e del riutilizzo di quello che è proprio il mondo della moda e dell'abbigliamento. Infatti, poi il 25 novembre ci sarà anche Reuse with Love che lavora proprio anche su questo tipo di tema, cioè riutilizzare e cercare di capire come la filiera della moda possa diventare più virtuosa. Quindi ricordiamo dal 22 al 26 novembre Terra Viva Film Festival, appuntamenti, talk e proiezioni di cinema altamente selezionati da tutto il mondo. I luoghi sono il Teatro Laura Betti di Casalecchio, la Casa di Conoscenze di Casalecchio e il Dams Lab dell'Università di Bologna. Non per dissuadere dalla fruizione in presenza, che è un valore importantissimo che quest'anno riacquisteremo in toto, ma vogliamo anche dire che tutti i film del concorso saranno disponibili gratuitamente su MyMovies. Esattamente, per chi non può partecipare in presenza, i film saranno tutti disponibili su MyMovies, la famosa piattaforma, c'è proprio una sezione Terra Viva Film Festival. I film in concorso sono 13, di cui 4 cortometraggi e 2 film di fiction. Verranno proiettati nelle varie giornate, a partire da martedì 22, dove c'è l'inaugurazione alle ore 14, tutti aperti al pubblico, fino alla domenica, dove ci sarà la premiazione a partire dalle ore 18 al Teatro Laura Betti. Quindi aspettiamo tutti gli ascoltatori. Perfetto, grazie.